GR24, il sole 24 ore. Indagato il tesoriere della Lega, truffa sui rimborsi elettorali. Articolo 18, intesa più vicina, oggi il vertice Montifornero. Evasione, retromarcia del governo, salta la blacklist dei commercianti. Lampedusa, 10 morti in mare, tentavano la traversata dalla Libia. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchia. Perquisizione di carabinieri e guardia di finanza stamani nella sede della Lega Nord di Via Bellerio, in coordinamento tra le procure di Napoli, Milano e di Reggio Calabria. In diretta per tutti gli aggiornamenti qui in studio con noi Maria Luisa Pezzali. Buongiorno. Sì, buongiorno Adriana, a te, agli ascoltatori. Appropriazione indebita aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Partiamo dalle ipotesi di reato per cui risulta indagato il tesoriere della Lega Francesco Belsito nell'ambito dell'inchiesta congiunta delle procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria. Secondo l'accusa sarebbe stato sottratto denaro al partito e sarebbe stato fatto un utilizzo illecito e non trasparente dei rimborsi elettorali, in ordine al quale si ipotizza siano stati presentati dal Carroccio rendiconti irregolari ai presidenti di Camera e Senato. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe in particolare un rimborso da circa 18 milioni di euro erogato al partito lo scorso agosto. A Belsito vengono contestati comportamenti illeciti riferiti anche al periodo in cui era sottosegretario alla semplificazione nel governo Berlusconi. L'inchiesta ha portato appunto questa mattina ad una serie di perquisizioni in tutta Italia, anche nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Con il tesoriere sono indagati anche gli uomini d'affari Paolo Scala e Stefano Bonnet, che hanno gestito le contestate operazioni finanziarie del Carroccio in Tanzania e a Cipro. Proprio dagli accertamenti su queste transazioni finanziarie sarebbero partite le indagini. Nel filone napoletano coordinato dal PM Henry John Woodcock, presente questa mattina in via Bellerio, l'ipotesi di reato formulata è di riciclaggio. Qui gli indagati sono 5. Stessa ipotesi anche per il filone reggino, di cui sentiremo tra poco nel dettaglio. Linea allo studio. Grazie Maria Luisa Pezzali. E infatti nell'inchiesta sul tesoriere della Lega spunta anche una pista calabrese. Ci aggiorna su questo Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. In questo filone calabrese dell'inchiesta, il tesoriere della Lega Nord, Belsito, viene tirato dentro da un procacciatore d'affari. Si tratta di Romolo Giraldelli, un broker indagato in passato per associazione mafiosa, ma soprattutto un uomo ritenuto consigliere economico delle cosche. È indagando su di lui, che fa affari sia con uomini vicini ai clan che con politici e lobbisti, è indagando su di lui, dicevo, che gli investigatori della DIA di Reggio Calabria arrivano a Belsito. Giraldelli è indagato per riciclaggio con l'aggravante di aver agevolato l'andrangheta. Avrebbe proposto affari sia a Belsito che agli uomini delle cosche e tutti poi alla fine sarebbero confluiti negli stessi filoni, in particolare negli stessi interessi, in particolare quelli già citati in Tanzania e a Cipro, dove gli investigatori hanno trovato fondi neri. E partendo, spiegano, da indagini sul riciclaggio di strumenti finanziari atipici. In tutto la DIA di Reggio Calabria ha eseguito 14 perquisizioni e notificato 8 avvisi di garanzia, tra cui quello appunto all'indirizzo di Belsito per il reato di concorso e riciclaggio. Ed è tutto. Grazie Monica Ceravolo. Ed ora le reazioni politiche con Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Nel Carroccio è stato Roberto Maroni stamattina il primo a parlare del terremoto giudiziario che sta investendo il suo partito. La Lega è parte lesa, ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno, che però si è anche voluto levare qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto ricordando di aver chiesto da tempo chiarezza sui conti, ma anche le dimissioni di Belsito, richiesta ribadita anche stamattina. Sentiamolo. Penso che, pur riconoscendo il principio di innocenza, questa inchiesta debba indurre il nostro amministratore a fare un passo indietro. Io credo che sia il momento di cogliere questa occasione per fare un'operazione trasparenza e mettere le persone giuste al posto giusto. Dagli altri partiti invece oggi sono in molti ad ironizzare sull'onestà della classe dirigente del Carroccio, da sempre sbandierata dagli esponenti leghisti. Fa bene Maroni a chiedere pulizia nel suo partito, il cerchio magico si è trasformato in un cerchio tragico, dice Di Biagio, di Futura e Libertà, altro che Roma ladrona, alla fine i nodi vengono al pettine, aggiunge Belisario dell'Italia dei Valori, la Lega cambi slogan, meglio ladroni a casa nostra, suggerisce infine Ferrero di Rifondazione Comunista, a te la linea. Grazie ad Andrea Viali. Al centro delle inchieste su politica e malaffare c'è anche il caso Lusi. L'ex leader della Margherita, Francesco Rutelli, ha spiegato ai PM di Roma, Alberto Caperna e Stefano Pesci, che Luigi Lusi ha acquistato beni per proprio esclusivo tornaconto personale, fuori da ogni mandato e a totale insaputa dell'intero gruppo dirigente della Margherita. E ora cambiamo decisamente argomento. Oggi l'interrogatorio di due dei tre arrestati nell'ambito dell'inchiesta di Bari sul calcio scommesse. Sostengono di essere estranei a tutte le contestazioni accusatorie, si dicono innocenti gli amici di Andrea Masiello, gli scommettitori Fabio Giacobbe e Giovanni Carella, arrestati ieri dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta barese sul calcio scommesse ed interrogati oggi. Domani toccherà proprio all'ex giocatore del Bari, ora all'Atalanta. Tutti e tre sono comunque accusati di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Nel mirino degli inquirenti, quattro partite dei campionati di Serie A 2009-2010 e 2010-2011, Udinese-Bari, Bologna-Bari, Cesena-Bari e il famoso derby Bari-Lecce, durante il quale Masiello fece un autogol dietro compenso per favorire la vittoria dei salentini, salvatisi così con un turno di anticipo. Secondo gli inquirenti, tuttavia, sospetti ci sono anche su Palermo-Bari 2-1 e su Bari-Genoa 3-0. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli ambiziosi obiettivi di bilancio dell'Italia potrebbero essere compromessi dalla recessione e da tassi di interesse troppo alti e il governo potrebbe essere costretto a varare nuove misure di austerità per portare a termine il programma. Lo scrive il Financial Times citando un rapporto confidenziale circolato all'ultimo vertice a Copenaghen. Il dossier riconosce le misure di Roma ma osserva che gli sforzi potrebbero non bastare a causa delle prospettive di crescita e degli alti tassi. È la prima delle giornate che vengono considerate decisive per arrivare ad un accordo tra i partiti della maggioranza e tra loro e il governo per varare la riforma del lavoro. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, argomento riforma del lavoro al centro anche del Consiglio dei Ministri che si è svolto in mattinata. Nonostante le smentite, il tema è stato affrontato nella riunione del governo con Monti di ritorno dal lungo tour nei paesi asiatici. Nel primo pomeriggio, articolo 18, licenziamenti economici, flessibilità in entrata saranno al centro del vertice a tre, Monti, Fornero, Passera. È il momento per l'esecutivo di iniziare quel percorso che lo porterà a mettere nero su bianco la riforma che sarà presentata prima al Quirinale e poi al Parlamento. Il clima tra parti sociali e forze politiche sembra intanto più sereno, CGIL e CISL e UIL si dicono pronte al dialogo, sempre che avvertono la disciplina sui licenziamenti economici sia modificata. Dalla Confindustria si invita a non esasperare il tema dell'articolo 18, la Presidente Marcegaglia però ricorda se saltano quelle modifiche allora è meglio cambiare la riforma, quindi il mondo politico per Bersani non si può mandare all'aria l'intero testo, ma per ora, constata il leader del PD, non c'è alcuna novità concreta. Dal Popolo della Libertà Berlusconi auspica che le riforme si facciano per avere un paese più moderno, Casini invita a fare presto. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Il governo cerca una soluzione alla questione esodati mettendo in campo una sorta di indennità di mobilità transitoria che li accompagni alla pensione e se effettivamente i numeri si avvicineranno a quelli circolati, ovvero 350.000 persone, la spesa potrebbe essere per ogni anno pari ad almeno 3 miliardi. Saltano le liste selettive di contribuenti, in particolare commercianti colti a non emettere scontrini o ricevute sui quali l'Agenzia delle Entrate poteva pianificare accertamenti. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, passo indietro al Senato sulla blacklist dei commercianti che non emettono scontrino. Per un emendamento alla legge delega sul fisco si toglie quindi la possibilità di elaborare liste selettive di negozianti pizzicati a non emettere scontrini o ricevuti sulle quali l'Agenzia delle Entrate poteva però pianificare accertamenti. La norma prevista nel decreto legge è stata modificata da un emendamento approvato in Commissione Bilancio e Finanze del Senato. Resta ferma la possibilità per le agenzie fiscali e la Guardia di Finanza di tener conto delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle per mancata emissione di ricevute e scontrini. Immediata la risposta di Confesercenti, che accoglie con soddisfazione la marcia indietro sulle blacklist che non hanno, appunto, di commercianti che non hanno emesso lo scontrino. Riteniamo inutile e dannoso, si spiega in una nota, trasformare la politica fiscale in una caccia all'untore. In questo modo si dà vita ad una spettacolarizzazione della lotta all'evasione. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, ed ora la nostra consueta rubrica sull'evasione fiscale, il paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Prendevano l'assegno di cassa integrazione, ma invece di essere a casa continuavano a lavorare in azienda che non era affatto in crisi, ma produceva, e come, tanto che gli operai uscivano di casa ogni mattina per andare proprio lì a lavorare. E venivano pagati dall'INPS. Una maxi truffa da 2 milioni di euro, quella scoperta ieri a Pesaro. Così sono stati denunciati 4 imprenditori manifatturieri e 45 dei loro operai. In pratica venivano messi in cassa integrazione, percepivano l'assegno, ma in realtà continuavano ad andare sul posto di lavoro. La Guardia di Finanza li ha denunciati tutti e 49 per truffa aggravata ai danni dell'INPS. Nella stessa azienda altri 85 dipendenti venivano pagati fuori busta quando facevano gli straordinari, e poi c'era un operaio risultato assunto in nero, e così alla fine c'è stata un'evasione contributiva per oltre 600.000 euro e un'evasione fiscale superiore al milione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per un aggiornamento sulla notizia di apertura, si parla di esborsi effettuati per esigenze personali di familiari del leader della Lega Nord nel decreto di perquisizione a carico del tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. La redditività delle banche italiane continuerà ad essere bassa nei prossimi anni e ciò le spingerà ad adottare una politica di dividendi conservativa, è quanto scrive Standard & Poor's in un rapporto, spiegando che questo scenario è dovuto alle perdite riportate nei bilanci 2011 per le ingenti svalutazioni degli avviamenti. Il Biscione esce da Endemol chiudendo un'avventura iniziata nel 2007 e mette a segno in borsa la miglior performance tra le blue chip con oltre 2 punti percentuali di rialzo. Mediaset ha ceduto sul mercato il 6% della quota di debito senior di Endemol. Sentiamo su questo il commento di Simone Filippetti del Sole 24 Ore. Nella primavera del 2007 Mediaset, assieme alla banca d'affari Goldman e al fondatore olandese Endemol, aveva acquistato la maggioranza di Endemol. Ora sostanzialmente dopo 5 anni dice addio ed esce completamente dalla casa di produzione. E come dire, la domanda che sul mercato ci si pone è se sia la scelta giusta o meno. Quando il gruppo televisivo della famiglia Berlusconi entrò in Endemol, tutti salutarono allora la mossa con favore, perché così Mediaset diversificava il proprio business. Ora tra gli analisti e tra i broker c'è un po' di spaccatura, c'è chi pensa che uscire del tutto dalla produzione di contenuti televisivi pregiati e rivendibili anche in tutto il mondo sia una scelta sbagliata, però c'è anche da dire che la vendita ha permesso di incamerare una plusvalenza notevole, cosa non banale in un anno molto difficile per i conti Mediaset, e poi a pensarci bene rimanere con una quota di minoranza in Endemol non aveva molto senso industriale. In chiusura di questa prima parte di GR24, un aggiornamento sui mercati finanziari con Deborah Rosciani. Buongiorno. Buongiorno, cominciamo da Mediaset che guadagna il 2,45%, parlavate di un 2%, poi il Biscione appunto ha incrementato i suoi guadagni in una giornata che però è complessivamente negativa per Milano. Il FTSE MIB perde 1 punto percentuale e ancora una volta tutte le vendite sono concentrate sulle banche. La Popolare di Milano perde il 5%, Standard & Poor's ha reso noto di aver messo il rating dell'istituto in watch negativo, si dice in gergo finanziario, ma i giornali riportano anche dei malumori all'interno dell'associazione Amici della BPM sull'amministratore delegato Piero Montani. Ma oltre a questo c'è anche il fatto che ci sono delle indagini in corso da parte della magistratura sulla fusione di 2 banche ricadute poi sotto il cappello della Popolare di Milano, cioè la Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria. Anche Intesa San Paolo perde il 3%, il Banco Popolare -3, Unicredit -3, quindi alla Popolare di Milano fanno compagnia anche le big. Lo spread fra BTP e Bund è sui 330 punti base, le altre piazze finanziarie sono negative ma meno di Milano, Parigi -0,4, Francoforte -0,14, Londra -0,22%, l'euro sul dollaro è a 1,33,30. È tutto.

in aree ad alta densità mafiosa è veramente eroico. Io dico al sindaco di non mollare, io dico che la dottoressa prima di decidere di mollare deve tenere in conto questo. Dici: io non resisto più, non ce la faccio più, però attenzione, deve poi fare i conti anche con se stessa, cioè la sconfitta è per tutti noi. Tutti noi oggi siamo sconfitti, uomini delle istituzioni, in particolare a livello centrale, perché vuol dire che il sistema non ha retto, che il sistema non regge, però è un problema anche interiore della dottoressa. Mi sento di dire questa mattina alla dottoressa di aspettare, di non prendere questa decisione oggi, di darci la possibilità e il tempo per cercare di capire, cioè fare un'indagine non è fare una frittata che si gira da un lato e dall'altro, in 10 minuti facciamo la frittata. E fare un'indagine richiede tempo, pazienza, certo. Bisogna cercare di capire, perché no. Noi non vogliamo fare le cosiddette retate spettacolari, la brillante operazione con le telecamere, eccetera. Quel tipo di lavoro non ci interessa, o mandare 100 carabinieri a fare perquisizione a tappeto. Quelle cose non servono a nulla, servono solo per le telecamere. La vicenda dei 94 embrioni andati perduti nel guasto al centro di procreazione assistita del San Filippo Neri di Roma potrebbe risolversi in un procedimento solo civile per l'eventuale richiesta di risarcimenti che alcune delle coppie danneggiate chiederanno. Sarebbe questo l'orientamento della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. Oggi gli ispettori del Centro Nazionale Trapianti effettueranno il sopralluogo per conto del Ministero della Sanità. Intanto sono già scattati i controlli dei NAS voluti dal Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Sanità, Ignazio Marino, che alcuni risultati li ha anticipati stamani a Radio 24 in diretta prima edizione al microfono di Anna Migliorati, e dice: la Regione Lazio non ha mai fatto controlli. Sentiamo. I nostri NAS probabilmente completeranno nella giornata odierna la loro ispezione, perché appunto gli aspetti da valutare sono diversi, dagli aspetti tecnici agli aspetti delle procedure, e in parte io le ho annunciato una carenza che è risultata evidente nelle procedure di verifica, di valutazione e di controllo. E questo sono le prime cose che le risultano? Esattamente questo, il fatto che la Regione Lazio non abbia mai svolto un sopralluogo per verificare i requisiti tecnici di accreditamento. In altre parole, è stata avviata l'attività con una notifica alla Regione che veniva avviata quell'attività, e in 8 anni non si è trovato il momento in cui la Regione verificasse: d'accordo, ha iniziato questa attività, hai i requisiti e la tecnologia adatta per svolgerla? Quindi quantomeno carenze nei controlli ci sono state. Eh sì, però certamente si capisce che quando le carenze nei controlli riguardano le attività sanitarie sono un aspetto preoccupante. Un turista italiano, Mario Bergamaschi, originario di Milano, è scomparso in Brasile. Le indagini sono scattate quando il padre di Mario, che da anni vive nella regione, ha avvisato le forze dell'ordine. Sposato e con figli, stava passando un periodo di ferie in Brasile e aveva già confermato il biglietto per l'Italia, dove sarebbe dovuto tornare la settimana scorsa. Ora veniamo invece al calcio, con l'attesa partita di Champions Barcellona-Milan. All'andata il Barcellona è costretto a un soggiorno di 2 giorni a Milano causa sciopero dei trasporti in Spagna. Ieri il Milan, infastidito da un ritardo di più di 3 ore del suo volo verso la Catalogna, causa sciopero a sorpresa dei controllori di volo francesi. Insomma, il destino della sfida tra Blaugrana e Rossoneri passa anche per i cieli, ovvio con tante stelle in campo. Guardiola si specchia nel prato perfetto del Camp Nou per dimenticare le buche di San Siro e dovrebbe rispolverare per l'occasione i piedi buoni di Fabregas per duettare con la pulce Messi. Allegri recupera Abate e soprattutto Pato, ma più che aspettare un Ibra finalmente bello d'Europa, chiede a tutta la squadra di essere grande. Non è questione dell'occasione della vita di Ibrahimovic, cioè per tutti è un'occasione importante per affrontare in semifinale. E poi buone notizie arrivano anche da Antonio Cassano. Dopo il lungo stop per i guai al cuore, Fant'Antonio è ora a un passo dal rientro. Quale migliore occasione, magari, di una semifinale di Champions? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E appunto Antonio Cassano ha superato la visita di idoneità agonistica ed oggi potrà tornare a giocare, come ha annunciato il medico sociale del Milan. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento a Regia Valeria Bernardi, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchi. A GR24 torna alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.